Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema complesso, di un tema estremamente importante, il problema dei giovani al lavoro. Infatti Giovani al lavoro si intitola il libro che hanno scritto Giuliano Cazzola, Angelo Pasquarella ed Alessandra Servidori per Guerini e Associati. Proposte semplici per un problema complesso. Buonasera a Giuliano Cazzola. Buonasera, buonasera a lei, a Pasquarella e agli ascoltatori. E buonasera ad Angelo Pasquarella. Buonasera a tutti. Giuliano Cazzola, già dirigente del Ministero del Lavoro e presidente del Collegio dei Sindaci dell'INPS, ha insegnato diritto della previdenza sociale, è stato anche vicepresidente della Commissione del Lavoro alla Camera nella scorsa legislatura e questo libro nasce indubbiamente da un problema molto attuale, la disoccupazione giovanile. Voi dite proposte semplici per un problema complesso. Molto brevemente, Cazzola, quali sono queste proposte? Ma innanzitutto sono proposte che rispondono a un imperativo categorico che ci siamo dati. Noi siamo assolutamente consapevoli che i posti di lavoro li crea l'economia e quindi fino a quando non ci sarà una ripresa stabile e sostenuta sarà estremamente difficile poter far ripartire l'occupazione. Però ecco, il mercato del lavoro non è una foresta congelata. Ci sono sempre delle opportunità, ci sono sempre delle occasioni e il nostro motto è: nessun posto di lavoro disponibile vada perduto. E lì facciamo una serie di proposte, diciamo la più significativa delle quali è il contratto a termine della fiera, sostanzialmente, dell'Expo. Nel senso che noi chiediamo che in occasione dell'Expo, come peraltro il governo voleva fare a primavera nel pacchetto Giovanini, ci sia una liberalizzazione dei contratti a termine, che in sostanza elimini il causalone, il cosiddetto causalone che lei sa crea tante difficoltà alle aziende per tutta la durata dell'Expo e per tutto il territorio nazionale. Questo consentirebbe di creare una flessibilità importante nel mercato del lavoro, peraltro con un contratto a termine che è tutto sommato lo strumento più tutelato, perché nei contratti a termine si applica il contratto collettivo nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e poi metteremo alla prova una fase, insomma, di flessibilità normata importante per vedere anche l'effetto che fa, per imitare quella vecchia canzone. Certo. Poi ci sono una serie di proposte, ma passo la parola a Pasquarella perché lui le spiega molto meglio di me. Ecco, Angelo Pasquarella, amministratore delegato di Project Land, società di consulenza, ricerca, formazione in ambito manageriale, e indubbiamente oltre a completare il novero di queste proposte, gli chiederei come vede lo scenario, cioè le possibilità ci sono, si tratta di adeguare, di mettere in fondo non solo in contatto l'offerta con la domanda, ma anche di dare delle diverse normative sul fronte proprio delle regole per avviare al lavoro i giovani. Pasquarella. Qui il discorso è questo, è quello di avere una politica abbastanza minimalista, cioè se noi cominciamo a trattare il problema del lavoro come un problema che dipende da grandi investimenti, eccetera, noi alla fine non riusciamo ad ottenere nulla. Allora vediamo di fare quello che noi possiamo oggettivamente ora e subito fare. Allora, una prima cosa è quella di facilitare la costituzione di nuove imprese. È vero che il governo Monti aveva fatto degli interventi sotto questo profilo, però riguardano esclusivamente le società, diciamo così, a forte contenuto di innovazione, mentre invece dovrebbero riguardare le intere nuove attività, soprattutto collegate ai giovani. Questa è una prima cosa. Per fare questo occorrerebbe intervenire fortemente sul fronte, da una parte della burocrazia per ottenere approvazioni, licenze, eccetera, eccetera, cioè tutte quelle che sono le attività burocratiche preliminari, e in secondo luogo operare in maniera tale da favorire in tutti i modi la trasformazione di capitale di risparmio in capitale di rischio, cioè in buona sostanza favorire tutte quelle persone, tra l'altro in Italia si gioca tantissimo, no? Certo. Ma perché non giocare a fare l'imprenditore? E quindi favorire tutte quelle attività, tipo business angel, tipo in buona sostanza crowdfunding, tipo attività di venture capital, eccetera, eccetera, che possono in qualche modo riciclare i risparmi delle persone anche dare nuove orientandole verso attività produttive ed economicamente valide, dando nuove prospettive ai giovani. Ma vorrei chiedere, poi magari tornando anche ai lavori così dire tradizionali, al lavoro dipendente, Giuliano Cazzola, si è passati dagli uffici di collocamento ai centri dell'impiego, ma cosa deve cambiare nelle strutture pubbliche di avviamento al lavoro, in strutture pubbliche che in altri paesi sembrano funzionare molto bene e a cui peraltro si fa affidamento anche per mettere in atto quel programma europeo di garanzia per i giovani, che dovrebbe garantire appunto ai giovani entro 4 mesi dalla fine dei corsi di formazione e di istruzione di trovare nuove opportunità? Guardi, lei fa una domanda da 100 milioni, perché è vero che noi abbiamo un apparato dislocato nei centri pubblici per l'impiego che è assolutamente sottodimensionato rispetto a quello degli altri paesi come la Francia e la Germania. Mi pare di aver visto dei dati, noi abbiamo un funzionario, diciamo un dipendente, ogni 240 disoccupati, mentre invece negli altri paesi si tratta di avere un operatore, diciamo ogni qualche decina, ecco, di disoccupati. Però io non credo che noi possiamo rincorrere l'occupazione del pubblico impiego e che questo poi alla fine rischia di diventare poi la sola occupazione che siamo capaci di creare. E bisogna mettere in sinergia le strutture pubbliche con quelle private, anche quelle private non è che fanno miracoli, ci sono delle strutture funzionanti ed efficaci nel pubblico, ce ne sono sicuramente nel privato, però dobbiamo fare sinergia, dobbiamo premiare il risultato e tra l'altro, come lei ricordava, la Young Guarantee ci dà questa possibilità, perché bisogna dare al giovane o un posto di lavoro o un'opportunità formativa, quindi bisogna garantire un risultato e bisogna anche educare queste strutture non a svolgere un'attività, ma a realizzare un risultato. E purtroppo però partiamo, se non da zero, da molto vicino allo zero, perché oggi i posti di lavoro, diciamo, che vengono trovati tramite queste strutture sono, mi pare, una percentuale molto bassa, l'1,2%. La gran parte dei posti di lavoro le persone se le trovano nelle reti amicali o familiari o lavorando da soli su internet. C'è una proposta interessante proprio in questi giorni della provincia di Milano. In questi giorni si stanno svolgendo a Milano, presso, mi pare, il centro missionario PIME, un'iniziativa promossa dalla provincia di Milano che si concretizza in 1700 colloqui di persone che cercano lavoro con i rappresentanti di 40 aziende che hanno messo a disposizione 218 posti di lavoro per 117 profili professionali. Questa per esempio è una buona politica, una buona pratica che andrebbe, il mio amico Angelo sa benissimo che gli enti locali potrebbero svolgere un ruolo importante in questo campo, che potrebbe appunto fare anche da scuola, enti locali chiamati ad intermediare, a promuovere iniziative di intermediazione fra domande e offerta di lavoro. Angelo Pasquarella, allora, chiamato ancora una volta in causa da Giuliano Castola, in questa prospettiva, ecco, gli attori sono già tanti, non è che dobbiamo aggiungere qualcun altro, forse bisogna anche semplificare un po' le procedure, soprattutto sul fronte normativo. Ma da una parte questo è assolutamente vero, dall'altra parte è possibile, e l'amico Giuliano sicuramente su questo punto trova d'accordo con quello che dico, trovare anche un aiuto da parte delle parti sociali, cioè le parti sociali autonomamente da sole possono fare determinate cose, prescindendo da tutto quello che riguarda la normativa. Facciamo un esempio pratico, no? Per esempio, mi dice un caro amico che è un capo del personale di una grande compagnia multinazionale, e mi dice sostanzialmente che ogni anno io ho circa 200.000 euro da spendere, no? In aumenti non di merito, ma bensì in automatismi, quindi aumenti di anzianità. Ma immaginiamo cosa significa se noi potessimo trasformare, naturalmente con una supervisione, quindi senza che questi soldi vengano distratti e tornino all'impresa, ma vengano trasformati in nuove assunzioni. Allora, ogni anno noi potremmo avere, già solo in questa azienda, 200.000 euro che possiamo dare a nuovi assunti. Questi nuovi assunti possono naturalmente servire a rivitalizzare anche l'impresa, anche facendo in modo che, aumentandone in qualche misura la produttività, possano incrementare anche quelli che possono essere gli aumenti di merito, certo, anche nei confronti delle persone più anziane. E questo è un esempio appunto di proposta concreta di utilizzare le possibilità che ci sono per muovere un po' quest'ambito del mondo del lavoro, del mondo dei giovani, che ha bisogno di essere mosso, soprattutto di ritrovare una speranza. Io ringrazio Giuliano Cazzola e Angelo Pasquarella, che hanno scritto insieme ad Alessandra Servidori questo libro molto utile per comprendere la realtà del mondo del lavoro in questa fase molto difficile. Giovani al lavoro, proposte semplici per un problema complesso. La prefazione di Pietro Ichino, l'editore è Guerini e Associati. Il costo sono 21 euro per 190 pagine. Grazie a Cazzola e Pasquarella, grazie anche a Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.